YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube, un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo e pure il perdibile della settimana tra TV, web TV, social TV. Noi abbiamo detto un nuovo appuntamento perché quasi tutti i colleghi cosa fanno? Sono andati in vacanza, noi invece. No, ligi non al dire dove? Così. No, noi abbiamo detto ma cosa ah. Le no, noi rimaniamo. Niente. Sono tornato dalle Langhe, no? Lo sai, no? Oh, chi ha vinto? Dobbiamo... Beh, chi ha vinto Monforte, le Baroliadi? La quinta stella di Monforte d'Alba. Beh, dai, sei paese soddisfatto. Natale di mia mamma, sono molto, molto, molto soddisfatto. E l'anno prossimo mi pare che sia... Oddio, non mi ricordo più. A Novello. Ah, vabbè. E però l'anno prossimo partecipi alle Baroliadi. Spingi un po' le botti anche tu. Spingo le botti, ma comunque sappi e ricordati che patrimonio... dell'umanità UNESCO Baroliadi compresa. Non lo tiene più nessuno. Baroliadi compresa. Vabbè, comunque siamo io sono tornato dalle vacanze espressamente per dire che i nostri account di Twitter sono @MartaCagnola oppure @DiBellasio, mentre il nostro hashtag famosissimo è cancelletto RadioTube. Giusto. Io voglio solo dire una cosa, dovete però perdonarci, andremo in onda solo il sabato per il la mese mia di preferita, luglio. Ecco, vince ma sempre no, Marta. Ma no, un po' di vabbè, un po' di rivoluzione giustamente nel palinsesto estivo di Radio 24, ma noi per tutto luglio niente, non molliamo, siamo qui. Il sabato siamo non lo qui. Molliamo e partiamo molto strani o particolari. Beh, intanto ieri grande giornata di festeggiamenti. Intanto stiamo gesticolando come due matti. Hai detto che non è vero che gli italiani non gesticolano, che è tutto un luogo comune e siamo qua che sembriamo due direttori d'orchestra. Io gesticolo anche con le gambe, riesco a gesticolare. Io sono tremenda. Dai, comunque, festeggiamenti. Reduci dai festeggiamenti del 238esimo compleanno di chi? Beh, vabbè, God bless America. Degli Stati Uniti, il 4 luglio. Che era ieri. Perché ne stiamo parlando gesticolando? Perché il Consolato Generale Americano di Milano ha avuto la bellissima idea di creare un rap. Il video è diventato subito virale, è stato su tutti i siti. Questo rap è una canzoncina che prende in giro un aspetto, secondo me, in parte superato della cultura italiana, cioè il fatto che noi non riusciamo a parlare se non anche con le mani. Io rido perché non le hai ancora tenute ferme. No, ho capito, ma perché c'è la tensione della diretta, cioè della radio, più che insomma. Lo mostriamo alla radio. Ecco qua il rap del Consolato Generale statunitense. Vediamo. Guarda, adesso lo lancio. Lancio sempre i file col dito. Eccolo qua. Just arrived in Italy, I'm here in Milan. Tried to buy a coffee but couldn't get it done. Tried to buy some water, they gave me some good wine. Man, I've got enough of this, I gotta change my life. Colleagues at the consulate said, you've gotta learn, you've got a good teacher, you'll speak. Questo ragazzo ha un problema, perché è andato al bar, è arrivato a Milano, ha chiesto un caffè e gli ha dato del vino, ma perché lui non conosce il gesto giusto. Allora, i gesti che vengono fuori in questo rap sono: what do you want? Sì. E lo sappiamo. You must go. Yeah. Are you crazy? Are you scared? E noi li sappiamo fare tutti con le mani e bisogna insegnarlo agli americani. E quindi il Consolato Generale statunitense a Milano si è inventato questa cosa straordinaria perché loro sono bravissimi a usare tutti i mezzi elettronici, tutti i social media. Anzi, io ti dico qual è il loro account di Twitter, che è US Cons Milan. C'è anche l'hashtag per questo video, che è Italian Hand Gestures, e abbiamo con noi la press specialist del Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano. Buonasera Francesca Bettelli. Buonasera a voi. Essendo italiana gesticolo. Ci hai fatto ciao con la mano. Francesca, ma com'è nata questa idea? Voi siete bravissimi e questo video ci ha fatto impazzire. In realtà, correggo Daniele, bene, non vogliamo prendere in giro gli italiani che gesticolano. Vogliamo superare una differenza minima, culturale. All'interno del consolato lavoriamo in italiani e americani, bellissimo team, e a un certo punto quest'anno, per lanciare il nuovo video del 4 di luglio, ci siamo chiesti cosa avremmo potuto fare e ci è sembrato che questa ponte musicale e visuale tra italiani e americani dovesse essere basato sui gesti. Ne abbiamo selezionati 16, Voi non avete idea di quanti ce ne sia, in realtà. E quindi abbiamo fuso una caratteristica tipicamente italiana con un ritmo che è invece il ritmo tipico dell'America di questi ultimi anni. Cioè, è stato un lavoro in cui tutto il consolato... E hanno ballato, tu hai ballato. Abbiamo ballato anche il console generale, il nostro console. Quindi, voglio dire, è un lavoro di squadra, è stato un lavoro di squadra sia nella realizzazione che nella partecipazione, anche perché noi siamo una squadra, come dire, mista. Noi lavoriamo insieme, italiani e americani, tutti i giorni, tutto il giorno, e ci piaceva sottolineare questa cosa, che noi siamo insieme anche in questi momenti, pur con le nostre differenze. Però obiettivamente è l'utilizzo di uno strumento che nell'immaginario collettivo, come si usa dire, non viene abbinato alla diplomazia nella sua veste più professionale. Quindi ci tocca, visto che noi parliamo sempre di social network, chiederti qual è il ruolo dei social network da un punto di vista professionale nella diplomazia e nel vostro lavoro. È un ruolo importantissimo, è un ruolo che è diventato sempre più importante, direi dal 2009 in poi. Sia il Dipartimento di Stato che il Presidente hanno abbracciato la filosofia dei social media. I social media non hanno sostituito la diplomazia tradizionale, quella che noi chiamiamo public diplomacy, ma certamente è arrivata la digital diplomacy, che è fatta con i social media. Il Dipartimento di Stato, la Casa Bianca sono dovunque, come del resto noi, e questo è strategico per noi, perché il mondo cambia, il mondo è sempre più giovane, più della metà della popolazione mondiale è giovane, e a questo punto è importante raggiungere nuove audience, raggiungere le persone giovani là dove si trovano, e molto spesso queste persone si trovano sul web e nei social media, e quindi per noi è diventato uno strumento di lavoro importante, ma davvero integrato. Francesca, grazie per essere stata con noi. È stata con noi Francesca Bettelli, Press Specialist del Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano. Io ricordo il vostro account di Twitter, perché ci sono un sacco di cose interessanti e anche divertenti, e anche il video, appunto, @US, scritto US, Cons Milan. Grazie Francesca per essere stata con noi questa sera. Ciao. Grazie a voi, grazie. YouTube. Rieccoci insieme dopo le informazioni per il traffico, che piacciono tanto a Daniele Bellasio da quando ha deciso di guidare la moto. Non ho ancora guidato. No, però il foglio rosa è arrivato. No, quello ce l'ho, però la prima lezione ce l'ho fra un po'. Ti avviso. Comunque. Vi avvisami, per favore. L'ho presa in tutto il mese in cui a Milano c'è meno gente, okay. Così è tutto più tranquillo. Però tu me lo dici, così io sto un po' fuori Milano. Non vengo di mercato. No, ma stiamo lontani, che qua così siamo un po' più sereni. Abbiamo parlato del 4 luglio, sì, abbiamo festeggiato il compleanno degli Stati Uniti con un po' di dolore per non essere... Io mi sarei fatta un bel aperitivo agli Hamptons con grigliata e fuochi d'artificio. Sì, mi sarei Philip accontentata. Roth che passa lì correndo, sì, così, facendo così, jogging. Così. Vabbè, sono a Milano solo per caso. Questa cosa del 4 luglio però è diventato anche un po' un pezzettino di politica della settimana. Perché? Perché Beppe Grillo e per di più anche Casaleggio questa volta sono sempre alle feste della diplomazia americana, cosa bella peraltro, giusto? Certo. E c'è stato un cosiddetto fuori onda. Un video che è stato carpito dal Corriere. Beppe Grillo era a Milano non accorgendosi, signori politici, esistono gli smartphone. Ormai, esatto. Ormai, ecco. Anche signore. Non accorgendosi, sì, diciamo così, del telefonino di qualcuno che lo riprendeva, ha illustrato le sue relazioni con il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Adesso rappresento 10 milioni, prima non rappresento un cazzo, prima era un bambino, veniva lì a dirci il nostro programma, e ancora adesso ci ha risposto, se legge la lettera, il compitino, vedi che fa il presuntuoso, fa il bambino. Adesso poi viene poi dalle europee. Allora, se leggi la lettera col compitino, ci ha risposto, fa il presuntuoso, fa il bambino, adesso rappresenta 10 milioni e prima non rappresentava una... Non è molto diverso da quello che dice in pubblico, ma comunque no, è dalla linea espressa. No, infatti, e questo è Beppe Grillo che parla del bambinone Renzi, ma insomma è stata la settimana del bambinone Renzi. È stata la settimana del presidente semestrale dell'Unione Europea, del Consiglio dell'Unione Europea, in quanto capo del governo italiano. Uh-huh. un pezzo che ci siamo girati nel solito modo che della nostra, sì, insomma, delle riunioni di redazione via mail, bellissimo, molto bello, che ho trovato veramente bello perché coglie nel segno. L'ha scritto Mattia Feltri, cui ovviamente sono legato a grande amicizia, sulla stampa di 3 giorni fa, giovedì 3 luglio. Giovedì spiegava una cosa molto semplice, però siccome lui è riuscito a farlo in modo che per noi forse è più complicato farlo, abbiamo deciso di chiamarlo direttamente. Buonasera Mattia Feltri. Buonasera a voi. Siccome non eravamo capaci di spiegarlo, no, non è vero, non eravamo detto così, Daniele, no, però ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo, di c'è carta. Il rumore della carta, c'è il rumore della carta, ecco, sì, qua le due pagine che ho personalmente strappato dalla stampa. Già il titolo: se il tweet diventa l'unità di misura. Mattia, c'è stato un nuovo punto di svolta per quanto riguarda la comunicazione, ma non solo la comunicazione, proprio il modo di gestire il discorso, la narrazione politica. Sì, beh, intanto voi fate spiegare a me il mio articolo, che è come spiegare le barzellette, quindi è una è vero, è una crudeltà. Però insomma, sì, noi abbiamo notato qui che lui aveva 2 fogli di appunti, perché come tutti sappiamo poi il discorso programmatico non l'ha letto, lo ha consegnato e ha fatto tutt'altro, no? Uno dei suoi tanti piccoli sacrilegi alle procedure burocratiche della nostra politica. Questi 2 foglietti, e nel foglietto di destra c'erano 10 tweet, e il titolo era proprio tweet, cioè erano 10 flash che erano l'ossatura del suo discorso. Non erano tweet, noi sappiamo che il tweet è il messaggio di 140 caratteri su Twitter, e per lui è diventato qualcosa di più, è diventato proprio l'unità di misura del suo pensare e del suo comunicare. Cioè lui non è né sintetico né analitico, è semplicemente uno che espone a flash un pensiero, come se stesse su Twitter, però sta al Parlamento europeo. L'idea dell'hashtag, lui ce l'ha proprio insita nel suo discorso, già solo questo Telemaco, che poi è diventato proprio il tormentone, sì, per 2 giorni. Io lo suggerisco come titolo della trasmissione di Floris sulla 7, sarebbe stupendo. Telemaco. Pensa. Vabbè, Telemaco. Comunque. E mi pare, Mattia, che tu voglia dire che è proprio non soltanto un modo di dire le cose, ma è di pensarle. Sì, assolutamente, un modo di pensarle, ma non è perché... noi tutti stiamo vivendo un periodo veramente straordinario, e probabilmente ce ne accorgeremo appieno fra qualche decennio, perché poi, come non mi ricordo chi diceva, io quando vivevo ai tempi del fascismo non sapevo di vivere ai tempi del fascismo, figuriamoci adesso. Cioè, noi stiamo vivendo una rivoluzione che sta spazzando via tutto quello che credevamo certo. La rapidità di Twitter, la rapidità di Internet è necessariamente un modo di pensare e di comunicare che riduce gli spazi della memoria, cioè la memoria si assottiglia. In realtà non è più neanche... Noi possiamo star lì nei giornali a scrivere, a raccontare che Renzi non sta mantenendo le promesse, non importa, lui sta già parlando di qualcos'altro, dicendo qualcos'altro, promettendo qualcos'altro. Alla fine non c'entrerà se lui ha mantenuto tutte le promesse, una parte delle promesse. Conterà un sentimento globale che viene fuori da questa smitragliata. E però se non ci si connette su questa nuova lunghezza d'onda non si può capire il fenomeno Renzi, io credo, non ne sono sicurissimo, ma credo. Ecco, in questa fase di cambiamento che tu hai ben descritto, c'è un personaggio che da un certo punto di vista la sta accompagnando, che è Silvio Berlusconi, perché anche questa settimana c'è stata una riunione con il Presidente del Consiglio Renzi sulle riforme da fare. Però contemporaneamente, sempre questa settimana, noi abbiamo visto un altro Berlusconi, un Berlusconi anche un po' rubato dal solito telefonino. Questa volta era un altro quotidiano, perché se non sbaglio era Repubblica in questo caso. Questa volta il sito, esatto, sì, che ha mostrato questo video che, non so, noi abbiamo delle immagini alla radio, se sì, siamo in grado di guardare qualche secondo. Siamo a Cesano Boscone, nella ormai casa nota casa di riposo. Mazzurche, immagini sgranate, prese anche qui da un camice bianco. Berlusconi a un tavolo che parla con alcune persone. Molto il video normale, peraltro, molto tranquillo. Sì, il video peraltro è lunghissimo, sono sì, almeno 3 minuti. Anche la canzoncina è lunghissima. Sì, poi a un certo punto parte anche Rosamunda. Sì. A me ha messo una malinconia questo video, proprio non riesco a guardarlo, non riesco neanche ad ascoltarlo. Però, insomma, siamo ancora nello stesso modo di fare comunicazione, sebbene al contrario, padroneggiare i social media, padroneggiare la rete e anche questo aspetto, e invece poi il video rubato, che è un po' come questo di Grillo, che però rientra nello stesso circuito. Mattia. Sì, rientra nello stesso circuito, non fa parte del processo mentale di Renzi, ma che non è solo di Renzi, è di tutto un mondo, per cui insisto, il tweet è diventato un'unità di misura del pensare e del comunicare. Qui siamo in uno dei tanti effetti collaterali. A me non piacciono molto queste cose. Poi in fondo Grillo era un incontro pubblico, ci stava anche, lui stava parlando pubblicamente. Questa ripresa di Berlusconi che io non ho voluto vedere, come mi capita spesso, cioè io credo di essere fra i quattro in Europa che non ha visto il celebre video porno di Belen quando uscì. Tanto voglio dire, di alternative ce ne sono molte in rete, però a me veramente dispiace, perché poi si dice che Berlusconi è uno irrispettoso delle istituzioni, della magistratura, però poi si può andare a fare il video di un detenuto che sta facendo rieducazione a sé e agli anziani, lo si può mettere su tutti i siti e sì, due proteste, finisce lì. Questo è uno degli effetti collaterali che a me non piacciono, però poi bisogna accettare anche le cose che non piacciono, purtroppo, perché è un mondo che sta cambiando. E allora io qui in questo caso sto appellandomi a un sistema di pensare, di contromisure vecchio che non funziona più. Uno può entrare in casa tua, riprenderti e metterlo in rete e nessuno ci tutela. E poi devi rispondere di cose di cui in realtà insomma non saresti chiamato a rispondere, perché non eri... Sì, a parte che poi Berlusconi a parte che appunto qui in questo video non c'è proprio nulla, è solo malinconico, ma non c'entra nulla è lui. Tutto l'insieme, comunque tempi di grandi cambiamenti, quello di cui stanno parlando tutti i giornalisti su Twitter, c'è stata una valanga, ma una roba incredibile. Allora, io giovedì sera ero davanti alla mia timeline di Twitter, a un certo punto ho detto, ma ragazzi, ma è estate, le finestre aperte, i bambini che giocano in giardino, Giova, tutti, e voi parlavano tutti lì a parlare di Giovanni Flori, soprattutto per le cifre che giravano, c'era tanta invidia di tutto. Comunque Giovanni Floris lascia la Rai e va alla 7, convinto da Urbano Cairo, che tra l'altro, dico tra parentesi, è anche il patron del Torino, squadra per cui Mattia tifa. Qualche settimana fa, in maggio, a Ballarò succedeva la lite. Questo no, e... la lite di Renzi. Dai, guardiamone qualche secondo alla radio, eccola qua. Non teme, chiedendo 150 milioni alla Rai, punto, di favorire Mediaset? Il Presidente del Consiglio bocca sulla Rai, in senso di partito, e non ce la mette. Chiedere alla Rai di dare una mano nel momento in cui ci rimbocchiamo tutti le maniche, caro Floris, tocca anche a voi. Mi dispiace, ma tocca anche a voi. Molto volentieri. Però, Mattia, adesso cosa verrà fuori? Che è colpa di Renzi se Floris se n'è andato? Io ero qui in redazione, sono ancora in redazione anche adesso alla Stampa, ma giuro che invece di notte sono andato a casa. Ero qui e c'è stata questa reazione, però poi insomma, diciamo così, è rientrata velocemente, perché è dura sostenere che Floris è stato santorizzato, è stato biagizzato di fronte a questo contratto. Quindi diciamo, il contratto parla di una scelta libera e rispettabile da parte di Floris, e che semmai mette un pochino più in ombra invece la lotta pro Rai di Floris in quell'intervista a Renzi. Diciamo, appare in questo momento appare un pochino meno genuina tutto lì. Tutti noi vogliamo guadagnare di più, credo. Sì, no? Sì, al di là degli aspetti contrattuali. Io volevo scrivere un nuovo romanzo per vincere anche io lo Strega, ecco, il desiderio di essere come Floris. Come Floris, bravo. Questa te la sei studiata dallo Strega, benissimo. Però secondo me c'è anche, chiedo a Mattia, l'idea che probabilmente Floris ha capito che una stagione politica è cambiata. Tutto viene spazzato via e forse bisognava cambiare. Allora, questo penso proprio di sì. Il fatto vero è che quando io e te abbiamo cominciato a lavorare, io qualche anno prima, tu qualche anno dopo, ma non c'è molta distanza, ci saranno stati quanti talk show? 2 al giorno? Oggi ce ne sono credo 15, no, ma pensate soltanto alla 7. La 7 credo che abbia più conduttori che giorni della settimana ormai. Sì, no, secondo me non sanno più dove, cioè, dovrebbe rosa, rimanere il martedì. Ha una rosa più lunga del Toro, Mattia, te lo dico. Una rosa più lunga del Toro, e naturalmente noi tifosi del Toro ci chiediamo, ma vabbè che Cairo sta facendo bene e ha un metodo di campagna acquisti finalmente efficace, ma cioè lui praticamente paga Floris con i soldi di Immobile che ha venduto al Borussia Dortmund, speriamo di no. Ragazzi, io devo interrompere questa riflessione perché abbiamo una piccola pausa, ma mi piaceva questo innesto politica, ma certo, politica, televisione, calcio, mi piace molto. Grazie Mattia, ciao, Mattia, di essere stato con noi. Grazie Mattia Feltri, buonasera. Un grande abbraccio, ciao, ciao, ciao, ciao. Radio Tube. Allora, rieccoci insieme per la seconda parte del nostro RadioTube, la trasmissione che come sempre vi fa ascoltare il meglio, il peggio della settimana, il perdibile, l'imperdibile tra TV, social TV. E sì, io ci tengo a dirlo, noi rimaniamo con delle puntate fresche in diretta tutti i sabati per tutto luglio, perché non ci piaceva abbandonare i nostri ascoltatori. Luglio, col bene che ti voglio, noi comunque ci siamo, perché l'attualità va, sì, la rete va, la social TV va. Ci occupiamo anche di cose importanti, serie di economia, finanza, per esempio questa settimana c'è stata la presentazione dei palinsesti, ecco, del Mediaset. Quindi, qui abbiamo già parlato la scorsa settimana della Rai, questa settimana palinsesti Mediaset, quindi facciamo un po' di par condicio, ma soprattutto andiamo un po' a vedere in che un cosa tweet. Dici i palinsesto Mediaset in un tweet, ma è troppo difficile. Grandi certezze e puntiamo sulla social TV. Bello, ti piace? Sembra il, come diceva Mattia, il metro di misura del pensiero. Hashtag del palinsesti Mediaset, perché per tutta sera. Sì. Sai che c'è stato un dibattito? Allora ti racconto un po' come si è svolta la cosa. Che tu vai tradizionalmente sempre nei posti e io sto sempre a leggere le tue mail. Dimmi. Sì, e ogni volta che vado mi dicono: ma non ti sei portata a Bellagio? Ma lui lavora. Cosa portami, devo fare? Però portami. Lavora, ma lavoro anche lì. Vabbè. Allora, cosa succede? Il rito dei palinsesti a Mediaset è proprio un vero e proprio rito. Una sera di inizio luglio, tutti gli anni, si incontrano dirigenti Mediaset, giornalisti, negli studi di Cologno Monzese. C'è un piccolo incontro, poi una cena con anche un po' di intrattenimento. L'anno scorso e quest'anno c'è stato il bravissimo Piero Chiambretti. Poi c'è la conferenza stampa. Insomma, si comincia alle 8, si finisce verso le 2 del mattino. Ah, però! Cosa è successo? Che prima della cena Pier Silvio Berlusconi prende la parola e dà delle parole di benvenuto e comincia, sì, a illustrare un po' i dati. E cosa ha fatto questa volta? La prima anzi io ce l'ho, perché poi prima? Io la seconda frase, dopo perché buonasera. Io sì, guarda, io poi ho questo vizio di prendere appunti su tutto, perché non si però sa mai. Questi qua, non sulla carta ma sulla questo tavoletta. Ce l'ho sulla tavoletta. Sì, nei momenti difficili la gente si attacca alle abitudini, la televisione è centrale nelle abitudini, la gente vuole questo più svago. Questa Silvio, è la prima frase. La seconda è stata: non posso non fare cenno a una crisi lunga, troppo lunga. Tifo per le riforme subito, tifo per la fretta del governo. Bene. Apriti cielo. Perché? Perché? Un endorsement a Matteo Renzi. Ho capito, ma è il padre di Pier Silvio, cioè Silvio Berlusconi sta facendo le riforme o dice di volerle fare assieme al Presidente del Consiglio e quindi... E quindi tutti avevano voglia di dare questa notizia, ma... Ma? Ma durante la cena dei palinsesti Mediaset c'è l'embargo per le notizie anche per i social. Davvero? Ebbene sì, è molto controverso. E quindi i dovete lasciare negli spogliatoi? No, semplicemente c'è un gentleman agreement, non si twitta, però è molto controverso perché... Purtroppo tutti si chiedono se valga la pena ancora gestirla in questo modo, ma è una tradizione, tutto esce la mattina dopo le 10. E tu sai che io per le tradizioni tu provo sei, tu una sei certa simpatia. Molto tradizionale. E quindi la mattina dopo le 10 le agenzie e i siti sono rimasti invasi da questo endorsement di Pier Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, che in conferenza stampa ha spiegato così. Sapevo stasera che avrei... rischiato, come dire, un po' di stupore, però noi facciamo impresa, stiamo attraversando non da poco, ma da 3 anni un momento terribile, non ci sono segnali veri di una ripartenza dei consumi, per quello che ci ricava negli investimenti pubblicitari, per quello che ci riguarda degli investimenti pubblicitari non ne parliamo nemmeno. È chiaro che ci auguriamo prima di tutto stabilità, perché la stabilità fa bene per forza di cose a chi fa impresa, e poi in secondo luogo, ma forse ancora più urgente, delle riforme che facciano ripartire l'economia. Quindi io penso che buona parte delle riforme di cui il governo si sta occupando siano indispensabili. Tu hai citato quella della giustizia, assolutamente sì. Certo è che quelle che riguardano l'economia, la ripartenza dell'economia, il lavoro, sono fondamentali. Eccolo qui, insomma, così l'abbiamo anche potuto sentire, perché insomma c'erano le agenzie, c'erano i quotidiani, ma io ero lì a raccogliere la voce, quindi abbiamo la live la voce dalla conferenza stampa dei palinsesti Mediaset di Pier Silvio Berlusconi con questo. E dopo aver parlato giustamente da imprenditore di quello che si aspetta dal governo, di che cosa ha parlato? Ebbene, non gli si poteva chiedere qualcosa sulla Rai. tornando, ah, la cara vecchia concorrenza dei due, tornando a qualche minuto fa, visto che con Mattia Feltri abbiamo parlato di Matteo Renzi e del problema di Giovanni Floris, bastava chiedere a Pier Silvio Berlusconi che cosa ne pensava di questi 150 milioni di euro di risparmio chiesto alla RAI e se era vero che c'erano queste trattative con Giovanni Floris per quanto riguarda Ballarò, e soprattutto un commento a questa posizione di Floris che diceva: se la RAI, se alla RAI vengono tagliati 150 milioni, si fa un favore a Mediaset. E così ha risposto Pier Silvio Berlusconi. Lungi da me farmi gli affari della RAI. Detto questo, voi qua appartenete tutti al mondo dell'editoria e sapete che momento stiamo vivendo. Noi abbiamo tagliato in 2 anni 620 milioni di euro, che stanno aumentando oltretutto. Mi sembra che fare delle efficienze sia doveroso, quindi questo è quello che mi sento di dire. Poi, per quanto riguarda RAI, canone, pubblicità, non penso sia giusto che dia delle opinioni precise a riguardo, perché sarebbero viste come opinioni, come dire, interessate da un punto di vista Mediaset. Io ho sempre sostenuto, questo sì lo dico, che il servizio pubblico abbia una sua importanza fondamentale, debba esistere per motivi industriali e debba esistere per motivi culturali. Poi pubblicità, non pubblicità, quanta pubblicità, su quante reti, questo ci vuole equilibrio, ma come dire, mi sento di dire, il servizio pubblico è importante per il paese, è importante anche per tenere alta l'asticella di competizione con tutte le altre aziende. Su Floris, che dire, onestamente mi è sembrata molto, ma molto fuori luogo la battuta di Floris, quindi non... che c'entrano i risparmi della RAI con Mediaset, che ha già tagliato, vabbè, 5 volte tanto, appunto. Eccolo qua, sì. Pier Silvio Berlusconi, che non le ha mandate no, a dire. No, anche perché però, ci sarebbe anche la questione del canone. Sarebbe come dire che il canone è un grande aiuto al servizio pubblico contro tutta la concorrenza televisiva da chissà quanto tempo. Beh, insomma, non... Quindi, erano insomma... proprio... Era un po' mele pere, diciamolo. Sì. Noi siamo però... tifosi sia della concorrenza sia del servizio pubblico. Noi stiamo pubblico, facendo tutto. Noi stiamo facendo... Grande... Anche perché noi ci occupiamo più che altro di social TV. Non la, quelli, la televisione la guardiamo appunto dall'altro lato. A proposito... Mi hai chiesto qualcos'altro? Ma certo, perché questa è la conferenza stampa. Social TV, poi io l'ho rapito perché volevo sapere qualcosa della, cioè, del nostro pane, cioè della social TV, perché adesso quasi ci allontaniamo dal nostro topic. Siccome hai detto poi che nel tweet di presentazione palinsesto ci sta anche social TV. Ci sta nel tweet ovviamente fatto dopo l'embargo. Certo, ai social network. Qua, siamo molto dopo l'embargo. Noi siamo, è passata quasi una settimana. Ecco qua. Allora, cosa ti hai detto? Beh... Mi sembrava, da tutta la presentazione, che loro puntassero molto sul loro essere digital e soprattutto che ci punteranno molto nella prossima stagione. Ecco qua cosa mi ha risposto Pier Silvio Berlusconi. Beh, diciamo che noi abbiamo spinto tanto per sviluppare questa, come dire, crescita di Mediaset sul web, soprattutto con i video, perché noi produciamo video, viviamo di video. Stiamo avendo dei riscontri che onestamente nemmeno noi ci saremmo immaginati, quindi questo è uno stimolo a fare ancora di più. Tu hai visto prima, no? Siamo arrivati nei primi mesi del 2014 a 2,3 milioni di video visti al giorno, video Mediaset. Quindi stimiamo, è una stima addirittura prudente, di chiudere il 2014 con oltre 700 milioni di video Mediaset visti. E questo ci proietta al primo posto assoluto come editori video in Italia. Abbiamo 22 milioni di app Mediaset già scaricate. Sul mobile, quindi un grandissimo vantaggio. Stiamo lavorando per fare sempre di più, più interattività nei programmi che esistono, programmi nuovi. Quindi è assolutamente un aspetto importante. Oggi lo è tantissimo da un punto di vista di presenza, diciamo così, nel tempo e nei gusti della gente, soprattutto dei giovani. Commercialmente lo è non ancora tantissimo, ma pensiamo e speriamo che lo diventi. Incursioni in Striscia la Notizia e poi Rising Star, su cui si punterà molto, soprattutto per la social TV. Sì, Striscia la Notizia apre, diciamo così, veramente ad internet. dovrebbero esserci dei nuovi contenuti che danno, come dire, dei punti di vista, quindi sia video che in generale inediti, e quindi questa è una novità importante. Striscia ha una potenza enorme d'ascolto, quindi, come dire, pensiamo che i risultati possano essere buoni. Rising Star è appunto questa novità molto sperimentale, è un talent che avviene in diretta con cantanti che vengono votati solo dal pubblico a casa, anzi in realtà c'è una percentuale di una giuria lì, ma è il pubblico a decidere veramente. È super innovativo, queste sono novità. Anche l'Isola dei Famosi, che produrremo da gennaio in avanti, avrà delle applicazioni multimediali, web e social, come in Italia non si sono mai viste. Beh, intanto sto sorridendo perché durante questa intervista sì. Daniele Bellasi ha scoperto che l'Isola dei Famosi si va su Mediaset. Cioè, Miss Italia sulla 7, l'Isola dei Famosi su Mediaset, non si può mai stare tranquilli. Italia's Got Talent da Canale 5 va a Sky, e a Canale 5 approda un nuovo talent, sempre con la squadra di Italia's Got Talent, che si chiamerà Tu sì que vales, in spagnolo. Ah, ma stupendo, bellissimo. Siamo tutti una grande famiglia. E questo è tutto merito della rete, che fa scambiare le cose. Certo, tutto, certo. È tutto un'unica grande televisione dentro la quale siamo immersi, che è la rete. Ti dirò di più. Siccome Mediaset ha annunciato anche molte coproduzioni con la Spagna, in realtà loro produrranno in Italia per trasmettere anche in Spagna, perché ormai il mercato non può più essere quello italiano. Beh, e basta. No, europeo, no, infatti. Mi siamo... Tra... Quindi faremo anche della social TV globale. Una delle prime produzioni sarà un film diretto da Daniele Lucchetti sulla figura di Quello Papa Francesco. Portaborse? Sì, sì. Sulla figura Papa di Papa Francesco. Francesco. Sì, sì, in spagnolo. Sì, sì, sì. No. E beh, oddio, se lo fanno parlare in spagnolo ci sta anche, sì, nel certo, vorrei certo. dire, cioè, ci certo. sta un po' nel personaggio. YouTube. Lo abbiamo detto che concludiamo il nostro appuntamento di questo sabato e di questa settimana con Radio Tube nella versione del weekend. Per tutto il mese di luglio noi andiamo avanti tutti i sabati, siamo insieme, non vi abbandoniamo perché l'attualità continua. L'abbiamo detto, l'attualità continua, e in questo ultimo blocco, in questo ultimo spicchio di Radio Tube vogliamo ricordare un personaggio che fa parte dei nostri ricordi, del nostro immaginario, Giorgio Faletti, che ci ha lasciato ieri, che ci ha lasciato e ci ha lasciato anche di stucco, perché è stata una cosa improvvisa che ci ha davvero... Io l'ho saputo su Twitter. E tu, sì, Daniele? anch'io ho letto i Twitter di alcuni colleghi. Beh, devo dire un grande, perché ci sono poche persone, pochi artisti in Italia così capaci di mettere assieme tante cose diverse, che peraltro è una figura di artista molto in voga per esempio negli Stati Uniti, in altre parti del mondo, invece in Italia sono quasi dei pezzi unici, per questo molto pregiati: scrittore, musicista, cantante, comico, attore, pittore addirittura, cioè veramente tutte le sfumature dell'arte. Tra l'altro lui sul sito ufficiale, insomma, lui si scusava con i fan per aver annullato la tournée, e questo oggi ovviamente suona in maniera completamente diversa. Cari amici, purtroppo a volte l'età portatrice di acciacchi è nemica della gioia. Mi piange davvero il cuore perché incontrare degli amici come voi è ogni volta un piccolo prodigio che si ripete e ogni volta mi inorgoglisce e mi commuove. Ma siccome mi sto commuovendo anch'io, e invece dobbiamo stare insieme che ancora per pazzeschi, qualche... Che occhi mamma mia, era bellissimo. Occhi pazzeschi. Io l'ho incontrato più di una volta e sono rimasta sempre... rapita, guarda, a un passo dall'innamoramento, Daniele, a un passo, sì, lì lo posso dire, lo posso dire. È una cosa bella, non è una cosa brutta. No, non è una cosa brutta e soprattutto sorridiamo per qualche secondo. Sì, no, lo certo, riascoltiamo anche in uno dei suoi personaggi più belli, Vito Catozzo. Che quando sono venuti i terroristi che hanno tirato la bomba a mano, sai che ho fatto? Sai che ho fatto? Porco immondo che sono sotto i piedi, ho preso la bomba a mano, l'ho mangiata, porco immondo. Sono andato fuori, ci ho fatto un rutto che ci ho incenerito la macchina a 150 metri. Eccolo qua, vabbè, io ero ragazzina ai tempi di Drive-In, poi di Emilio e ancora prima di Antenna 3 Lombardia, che aveva, sì, sì, sì. che aveva valorizzato per prima il grande patrimonio del cabaret milanese. Lo hai detto prima, Daniele, lui faceva tutto. tutto con grande sapienza, grande cura, grande entusiasmo. E grande successo, gli riusciva tutto. E grande successo. Quello che toccava diventava un successo. La prima volta, adesso non voglio essere autoreferenziale, ma devo spiegare cosa stiamo per ascoltare, perché la prima volta anche perché che... te l'ho chiesto io, al limite sono io Marta referenziale. La prima volta che l'ho incontrato è stato nel 2007, era al Festival di Sanremo, lui era lì per accompagnare Milva perché le aveva scritto The Show Must Go On. C'era ancora la curiosità di sapere come potesse essere passato con così grande successo dalla scrittura comica alla scrittura musicale. Ecco qua cosa rispondeva nel 2007 Giorgio Faletti. Ma io ti dico, io ho sempre scoperto delle cose che mi sono trovato in mano e che credevo mi fossero precluse. Cioè io forse nonostante tutto ho sempre avuto molta meno fiducia in me stesso di quanto avrei dovuto averne. Ma non per presunzione, ma perché non mi sono avvicinato a certe cose come la scrittura per pudore, per una forma di rispetto, perché pensavo di essere inadeguato. E poi poco per volta mi sono trovato in mano una serie di possibilità di esprimermi che mi ha prima di tutto stupito e poi mi ha esaltato, ma no, non è la parola giusta, che mi ha carburato, che mi ha dato i giusti giri al motore e così adesso trovo in una cosa l'entusiasmo per spostarmi a fare quell'altra. È una cosa stranissima che però mi riempie di gioia perché vedo che gli sforzi che ho fatto in passato per arrivare alla gente, per cercare il modo di arrivare alla gente, in qualche modo sono stati coronati da successo, anche se le persone che hanno il mio carattere, tutto sommato contente, non lo sono mai, perché c'è sempre un obiettivo più in là. Ogni artista in qualche modo dentro di sé, se è così, ha i germi del fallimento, anche quando raggiunge il successo. Una persona col mio carattere non è contenta mai. Sì, però in ogni cosa che faccio trovo l'entusiasmo per fare la cosa successiva. Ma pensa che bello sarebbe vivere ogni giorno così. A me era piaciuto giorno tanto. Trovi l'entusiasmo del giorno dopo, stupendo. Ho scelto questa dichiarazione perché mi piaceva l'entusiasmo, l'energia e la voglia di fare tante cose. Un'altra volta lui è venuto qui a Radio 24, è venuto varie volte. Una volta è venuto, l'ultima volta l'anno scorso in maggio, ci ha raccontato molto della sua vita perché era uscito un doppio CD che ripercorreva tanta sua musica, quindi abbiamo ripercorso un po' la sua carriera. E io che gli avevo confessato di aver cominciato a occuparmi di cinema sulle orme del suo grande critico cinematografico Attilio Bussolazzi, che era uno dei suoi personaggi, gli avevo chiesto: ma perché non hai mai fatto tra i tuoi personaggi né uno scrittore né un musicista? Ah, già, giusto. Beh, no. E invece senti qua cosa ha risposto Giorgio Faletti. Il musicista, ho fatto un personaggio una volta per divertire gli amici, che era il maestro Mastropasqua, che era un, mi ricordo, stavo registrando un disco e allora ho cominciato, non so, sai, sempre per caso succedono le cose, allora ho cominciato a fare questo come dire, questo fesso millantatore, il maestro Mastropasqua, uno che aveva diretto la soprano Botallo e il tenore in Pallomeni, capito? Ma sono bellissimi. E che poi diceva Verdi quell'imbianchino e poi alla fine andava a fare il piano bar alla Chiocciolina di Vigevano per 8.000 lire una pizza e una birra, ecco questa. E però lo facevo per gli amici, pubblicamente non l'ho fatto mai, ecco, il maestro Mastropasqua. Lo scrittore non mi è mai venuto in mente di interpretarlo come personaggio comico, l'ho interpretato come personaggio reale, spero di non far ridere mio malgrado. Ma che bello, un personaggio che non avevamo mai visto. Sì, un personaggio che così ha dipinto in due parole. Ma forte, forte. Il problema di questi personaggi, secondo me, e gliel'avrai chiesto, essendo tu una cronista di razza, è che quando tu fai tante cose, poi prima o poi una la sbagli. È anche l'ansia da opera seconda. Ah beh, quello non ne parliamo. Uno che scrive Io uccido, che ha quel successo straordinario in libreria, la seconda deve essere durissima. Ecco qui Giorgio Faletti. Da una parte tutti i successi mettono ansia da prestazione. Uno deve partire anche dal presupposto che vale la famosa frase di Troisi quando gli chiedevano cosa stesse facendo: sto sbagliando il secondo film. L'importante è applicarsi sempre come se ogni disco, se ogni libro, ogni cosa fosse l'ultima che fai, per lasciare un buon ricordo. Forse possiamo cambiarla, ma è l'ultima. l'unica che c'è, questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse 100 anni o 200 è un attimo che va, forse di un attimo appena sarebbe come. Tutti vestiti di vento a inseguirci nel sole, tutti aggrappati ad un filo e non sappiamo dove. Minchia, signor tenente, siamo uscite dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale, e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto cassa vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava. Adesso è proprio difficile, Daniele, eh? Infatti adesso è difficile. Salutiamo Valeria. Salutiamo Valeria che è stata in regia con noi. Salutiamo i nostri ascoltatori, che però ritroviamo la prossima settimana, sempre sabato alle 18, con una puntata tutta nuova di RadioTube. Salutiamo Giorgio e alla prossima settimana.